fasten your seatbelts. Don't forget your keys. Your engine is on. Please fasten your seatbelts. Eccoci qua in lieve ritardo e me ne scuso, ma una metropoli impazzita, metropolitana compresa, ha comportato questo ritardo di quasi 20 minuti del sottoscritto e quindi di prove tecniche di trasmissione. Oggi è 15 novembre del 2017, il palinsesto dopo il sottoscritto prevede intorno alle 22.30, 25 o'clock. 0649 1750 al contatto telefonico, il sito internet www.ondarossa.info anche per usare il nostro streaming. Ondarossa@ondarossa.info è l'indirizzo email e questo spazio ha una pagina Facebook, prove tecniche di trasmissione /disorder, dove domani, oltre che sul sito, verranno pubblicate la playlist e il podcast conseguente. Un saluto ad Alessandra qui da Roma, Like Wake, Enrico Cerrato che ci pensa da Asti e lo abbracciamo. Enrico Cerrato alias Petrolio. Un saluto a Raffaele Pezzella in quel di Napoli, ed è proprio con lui, come ideatore di Visions of Darkness, questa compilation della scena iraniana che ormai stiamo sentendo da parecchio tempo, ma è un doppio CD con interessantissime tracce, moltissime veramente da mandare e imperdibili. E questa sera cominciamo proprio con XS9, uno dei tantissimi progetti sotterranei provenienti dall'Iran, e questa traccia si chiama Lost. Thank you. XS9, Farnan Monaherani, da Teheran, da questo Visions of Darkness, The Iranian Contemporary Music. E andiamo oltre, andiamo avanti con la seconda traccia da questa compilation. Loro sono i Crows in the Rain, una piccola grande orchestra, con un brano però abbastanza breve, For a Firm, Crown in the Rain. Abbiamo estratto due passaggi prettamente space, dark ambient. Anche questi Crows in the Rain, un sestetto, anch'esso proveniente da Teheran. Il tutto estratto per l'appunto da ormai questa consumatissima compilation dal nome Visions of Darkness, sulla quale andiamo a salutare dandogli un benvenuto a Raffaele Pezzella in quel di Napoli. Sara Cappai è invece un'artista italiana emergente, è da menzionare questo splendido EP di 5 pezzi dal nome Cold Device. Lei, Sara Cappai, è anche titolare di un'etichetta proprio proveniente dalla Sardegna, la Tini Speaker, con la quale esce non a caso per l'appunto con questo Cold Device. Gelida Cold Wave, con frequenti contatti con il mondo industrial. Per conoscerlo tutto mancava soltanto l'ultima traccia, che in realtà è, come dire, una extra tracks mixata da Gianmarco Cireddu, e ricordiamo il lavoro è, come dire, anche curato da Ivan Battaglia e Simon Ballestrazzi. La traccia in questione si chiama Set My Heart. Era dunque Sara Cappai con Rumpling, questo emergente progetto italiano da tenere assolutamente sotto controllo per gli spero sviluppi futuri sulla lunga distanza. Si va a risautare Like Awake, ricordiamo una sua performance che si terrà giovedì 23 novembre insieme a Battery Legion al B-Folk. Per una volta facciamo un'eccezione nel menzionare un club peraltro molto interessante con le sue proposte sonore. Un saluto dunque di nuovo a Stefano Di Serio. Suonerà anche Marco Ergo Malasomma. Il 13 novembre del 2004 moriva John Balance, fondatore insieme a Peter Christopherson dei Coil. Quindi sono già passati 13 anni, come tradizione tra virgolette impone, perché ci viene spontaneo e perché abbiamo sempre apprezzato i Coil come modello di riferimento, andiamo a fare un ripassino del primissimo lavoro di questo progetto storico. Un disco che si chiamava Scatology e uscì in prima stesura sul vinile nel 1984. E quindi da questo Scatology dei Coil ci andiamo ad ascoltare Solar Lodge e Godhead, Death Head. Questo pezzo di storia si chiamava Scatology, primissimo album dei Coil, targato 1984, uscì in vinile attraverso la Force and Form Release e poi ovviamente ristampato in CD successivamente e arricchito in questa versione con una cover di Tainted Love di Soft Cell in una versione molto più criptica e claustrofobica. John Balance dunque, morto nel 2004, il 13 novembre esattamente, per un incidente domestico. Ironia della sorte, tra virgolette, nel 2010 morì, sempre di novembre, Peter Christofferson, l'altro fondatore dei Coil e membro dei Throbbing Gristle per molti anni. Molti ringraziamenti e molti artisti hanno partecipato a questo Scatology. Gavin Fredai alla voce, dei Virgin Prunes, Stephen Trower. Si ringrazia Mark Almond e Steve Stapleton, eccetera, eccetera. Insomma, fu un vero e proprio pezzone di storia questo Scatology dei Coil. Coil che non mancheremo mai di ricordare quando sarà necessario. Torniamo in Italia, lui è Gianluca Becuzzi, qui ripreso come Kinetics in una collaborazione insieme a Corrado Altieri in un album che si chiama New Dystopian Order, un album un po' tra breakbeat, trip hop, ritmiche un po' particolari per quanto riguarda Becuzzi, diciamo meno minimali del solito. Da questo album andiamo ad ascoltarci Last Hostages. Explosion. L'ottimo New Dystopian Order con Gianluca Becuzzi qui nella veste di Kinetics insieme a Corrado Altieri, registrato dal 2016-2017 in quel di Cagliari, quindi anche questa volta c'è della Sardegna in prove tecniche di trasmissione, come all'inizio è stato con Rumpling di Sara Cappai. Album, come dire, concettuale, perché anche dai titoli e dai campionamenti si può intuire il tema dell'album, che è sostanzialmente la deriva terrorista di taluni fenomeni. Infatti la scorsa settimana era Terror Propaganda, questa sera Last Hostages, ed altri titoli che ci andremo ad ascoltare nelle prossime settimane saranno testimonianza di questo interesse di Becuzzi e Altieri. Album con accenti noise, breakbeat e, come dicevo, forse meno minimale rispetto alla normale produzione di Becuzzi come Kinetics. Un album uscito in 50 copie limitate con un bel packaging a 5, molto interessante. E già che sta in ascolto, salutiamo anche il buon Gianluca Becuzzi. Adesso un bel saltone geografico e non solo. Trepanerings Ritualen, un misterico progetto proveniente dalla Svezia, con una serie di compilation, tutte con il medesimo nome, The Totality of Death. Questa che andremo ad analizzare noi è del giugno del 2013.